sostanziale, speciale, eccezionale, se tu sei ta speciale. Corso spaziale, speciale, eccezionale, se tu, se tu sei ta. 31 gennaio 2016, ore 18:52, e questa è l'ultima puntata in programma a Coxo Spaziale Speciale Setup nel meraviglioso megagalattico studio di registrazione costruito da Radio Città Fujiko a Setup, e io sono con la madrina del Coxo, scusami, che è super mega galattica ovviamente, e che si chiama Francesca Clementoni. Esagerata. No, sei proprio la madrina del Coxo. Sì, appunto, e quindi arrivo all'ultima puntata, mi sembra giusto. Chiudo. Sei arrivata alla prima, che ci hai spiegato, allora questo è un mixer, si alzano, esatto, i volumi. Ho aperto il cerchio e lo chiudo, anzi no, non mi piace, lo chiudo perché sembra che questa sia l'ultima puntata del Coxo, direi di no. È l'ultima puntata del Coxo Spaziale Speciale Setup, okay, che è la prima volta che io faccio una cosa del genere per Radio Città Fujiko. Ho fatto qualcosa per Alia Media anni fa, e però adesso insomma che tu venga e mi batta sulla spalla e mi dica sei stata brava, ma chissà se me lo dice. E a Alia Media c'ero, ed era prima del Coxo, ti ricordi, in fiera, sotto la scala mobile? Eh certo, ma io è lì che t'ho conosciuto, anzi in Piazza Puntone, a voler mettere, esatto, i puntini sulle ma Y. Senti, piantiamola di essere autoreferenziali, va? Cavoli, hai ragione. Fra l'altro è un tema caro quello di evitare l'autoreferenzialità per il Coxo, e come si fa? Come si fa? Si fa che abbiamo dei super mega ospiti, perché anche qui non possono mancare, che sono niente poco di meno che Francesca Antonino ed Esther Braga. Ciao. Ciao, buonasera. Che hanno realizzato un progetto estremamente interessante che si chiama, io lo sbaglio sempre ma questa volta lo dirò giusto, o anzi lo faccio dire a lei che di sicuro non lo sbaglia, Infiorescenze. Clash così? Ah no, infioresenze? Infioresenze. Quasi, sì. Adesso lo facciamo dire a loro, così lo dico bene di sicuro. Si chiama infiorescenze. Perché non mamma... Scusate. No. Adesso vi faccio vedere. In radio non possono vedere, ma leggi qua. Io cosa dovevo fare? Va bene, lo fotograferemo. Allora, se è infiorescenze riesco a dirlo, però giuro. Tutto già è stato molto coxico, no? No, come anche sempre. La mia dislessia è uno dei temi focali del coxo. Comunque, mega galattico progetto, sentiamo di che cosa si tratta, perché sono curiosissima. Ma subito così? Eh sì, no, non lo so. O andiamo tu. Per tentativi? Sei tu la conduttrice, dillo. No, tu sei la co-conduttrice, io mi inchino. Sì, ma non conosco cos'è la scaletta. Wow, che cos'è? Diciamo che tenta di essere una rete in questo momento, una rete di persone del territorio bolognese che condividono un bisogno, sostanzialmente un bisogno di condivisione di pratiche di movimento. Quindi stiamo parlando un po' dell'universo danza o comunque dell'universo movimento e ricerca del corpo, e quindi quello che stiamo tentando io e Francesca insieme a una squadra comunque di insegnanti e danzatori bolognesi è di facilitare un po' la comunicazione e lo scambio attraverso varie realtà che esistono già da tanti anni o che esistono da un po' meno a Bologna, e per aprirci un po', quindi smuovere un po' le energie e aprire un po' le porte a chi anche magari non conosce la danza contemporanea o chi invece la mastica più o meno bene. E per finire il quadro, sì, e il frame in cui si iscrive quest'ultima puntata dei Coxo Speciali, e possiamo anche dire da dove venite voi, qual è il vostro percorso. Quindi comincia Francesca. Sì, io sono una danzatrice nata e cresciuta a Bologna e poi mi sono formata a Parigi e ad Amsterdam principalmente, poi anche un po' in giro per l'Europa. Sono tornata qua e mi ha preso Raffaella Giordano per un corso biennale, e dopodiché ho vari progetti personali, altri con collettivi, e poi ho incontrato Esther e abbiamo deciso insieme di dar vita a questa rete appunto di insegnanti, praticanti e danzatori insomma. Io invece danzo anch'io, insomma, da tanti anni, e mi sono diplomata, specializzata, insomma, ho studiato principalmente a Londra, e dove ho vissuto per 4 anni. Dopodiché mi mancava l'Italia. capita spesso. Alle volte, no? Si dice cervello in fuga, ma poi ci sono anche quelli che tornano. Poi il cuore però ritorna. Esatto. Quindi sono tornata in Italia già da 1 anno e mezzo e appena sono arrivata sono andata in giro a vedere cos'era successo negli anni in cui ero mancata, cosa c'era, cosa non c'era, le esigenze e quant'altro, e lì mi sono imbattuta in Francesca. E quindi ci siamo un attimo confrontate e conosciute. E adesso siete qui, sì, per gli speciali di Coxo Spaziale. Esatto. Che dire di più? Hai detto niente. E vi andremo a indagare anche insieme alla co-conduttrice occasionale nonché madrina del Coxo. C'ho già la domanda in canna. Bene, allora un brano per prendere il respiro. Io sospiro. Che tu sospiri perché sei cotta che non ce la fai più. Cotta, però. Dislessica, tutto quello che vuoi. E poi di nuovo qui con Infiorescenze e il domandone. This is the soup that I believe in. This is the smoke I'm always breathing. This is the way I share my breakfast. This is the way I serve my sentence. Well, I know I should lay low. I should stand tall. This is the beard I'm always growing. I know they're here, I see them floating. Her empress beards, they float so holy. Their beards are here, they gently hold me. Well, who knows, who knows? Yeah, I may come home. Yeah, I may return. This is the way I'm always leaving. This is the soft voice of the evening. This is the way I hear my father. These are the flames that drown the water. Well, I knew I could stand tall. I could lay low. This is the sound that swims inside me. That circle sound is what surrounds me. This is the land that grows around me. And these are the hands that come in handy. Well, we've known we've had a choice. We chose rejoice. Torna in studio, dai, su. Posso? Certo. Anche se non ho scritto la C? Sì, torna in studio, dai, è finito il brano, ci abbiamo le nostre stupende ospiti. Posso fare la domanda stupida che ce l'ho proprio lì da un sacco di tempo? Io sono anche curiosa. Ma in realtà voi? Dopo direte... Molto. Sì, poi direte, ah, tutto qui. No, vi spiego. Io ho delle amiche danzatrici, contemporanee pure. E che danzatrici? E che ogni tanto mi invitano ai loro spettacoli. Io ci vado, delle volte capisco, delle volte no, ma pazienza, questo non è un problema. Ma quando arrivo, lo zoccolo duro di una parte del pubblico, non tutto il pubblico, sono le loro colleghe o i loro colleghi danzatori o danzatrici. Allora, la mia domanda stupida è questa: a che serve Infiorescenze se già i danzatori di Bologna si conoscono tutti? Ecco la risposta. Sì, i danzatori di Bologna si conoscono tutti, chiaramente, Però in realtà praticare insieme, trovarsi in sala, scambiare idee, corpi, sudore e ricerca non è una cosa così scontata. Quindi sì, ci conosciamo tutti, magari ci incontriamo agli spettacoli, magari agli spettacoli dobbiamo fare anche quelli un po' snob, perché comunque è così. E invece poi quando si va in sala si è tutti più tranquilli e diciamo lo scambio è più vero. Ma quindi quando andate nei camerini alla fine dello spettacolo e vi dite o ci dobbiamo vedere per quel progetto là, cioè, poi alla fine non se ne fa niente, dai, adesso non è proprio sempre così, e buone intenzioni ci sono poi sì, diciamo che no, comunque insomma sì, la volontà è quella appunto davvero di creare una rete pratica di condivisione, di scambio e di collaborazione tra insegnanti per creare un territorio comune sulla danza contemporanea, per l'appunto. E quindi nella pratica come funziona? Perché l'esempio che ci portava Francesca riguardava l'occasione dello spettacolo, in cui comunque la ricerca è aggiunta a un termine, ci può essere uno scambio così oppure di altre progettualità, ma questa cosa in fiorescenza si propone di essere orizzontale, giusto? Sì, giusto. Diciamo che c'è sicuramente un nocciolo, insomma, comunque costitutivo, comunque organizzativo di questa rete, che al di là appunto magari delle ideatrici che siamo state io e Francesca, c'è appunto una squadra dietro di insegnanti che lavorano su Bologna e molti con tante esperienze, invece anche ragazzi più giovani, più appunto lanciati nel mondo della danza professionale. E ci siamo incontrati, comunichiamo e c'è uno scambio continuo magari appunto di idee o di volontà e come metterle in pratica, insomma. Quindi diciamo che sì, c'è una squadra dietro e poi rendiamo accessibile le iniziative che proponiamo, le attività che proponiamo a tutti, appunto danzatori e non danzatori e persone che sono venute a contatto con questa rete. Altra domanda. Ce l'hai tu? Per, come dire, voi avete parlato molto di pragmatismo, di pratica. La pratica della danza richiede uno spazio. È vero che si può danzare per la strada, questo lo sappiamo tutti, è banale dirlo. Però poi per fare, costruire progetti, lavorare su idee insieme, eccetera, eccetera, servono degli spazi chiusi e adeguati al vostro tipo di attività e di professionalità. Come avete intenzione o come state pensando di ragionare su questo livello? Allora, diciamo che il tutto è nato ad estate dell'anno scorso, cioè del 2015. In Leggere Strutture ci ha offerto gratuitamente lo spazio e noi abbiamo organizzato una settimana di laboratori. Grazie al fatto che Leggere Strutture non ci ha fatto pagare nulla, e noi abbiamo potuto tenere comunque delle quote accessibili a tutti. E questo è stato, in termini davvero di energia e di presenze, secondo me un punto molto importante. E ora, oltre a Leggere Strutture, anche Spazio Danza ci sta offrendo lo spazio per fare delle lezioni settimanali. È chiaro che la nostra volontà in futuro è o di fare una, cioè di far sì che Infiorescenze diventi sempre più nomade e quindi vaghi tra le varie strutture esistenti, oppure magicamente in qualche modo arrivi uno spazio, e questo sì è la prospettiva, insomma. Però per ora, siccome siamo appunto abbastanza radicate con la terra, sappiamo che probabilmente la cosa più opportuna al momento è essere nomadi fino a che magari non abbiamo, insomma, rimpolpato un po' sia l'organizzazione sia le iniziative, quindi possiamo andare a chiedere qualcosa a qualcuno. Beh, questa cosa del nomadismo mi piace anche soprattutto nella danza, perché dà proprio il senso dello spostamento da un luogo all'altro e secondo me richiama anche il loro tipo di attività fisica, scusate se la semplifico così. E io sono anche un po' curiosa di entrare più nello specifico di cosa accade quando questa compagnia di nomadi si incontra, perché mi immagino che ci siano più insegnanti o più danzatori, più ricercatori, insomma artisti di diverse discipline sempre nell'ambito del performativo che si incontrano, e come c'è un'organizzazione di base che è prestabilita all'origine, oppure c'è proprio anche un'apertura nel... come si svolge un incontro di infiorescenze? Stai parlando di un incontro pratico. Di pratica, oppure sì, più magari una riunione organizzativa di quelle che possono essere quello invece pratico, le iniziative? Pratico. Ah, ok. Allora, appunto, come già vi aveva accennato Francesca, il primissimo seme che abbiamo lanciato è stata questa settimana di laboratori, in cui ogni giorno abbiamo proposto 3 laboratori tenuti da insegnanti tutti diversi. Quindi diciamo che in una settimana più o meno 11 insegnanti hanno avuto la possibilità di condividere il loro lavoro. E in quel momento lì ogni insegnante ha la piena libertà di proporre ciò che è la propria ricerca in quel momento e ascoltare il gruppo e le esigenze di quel momento. Quindi ogni insegnante ha proposto un po' il suo, e diciamo all'interno di un coro comune che era una ricerca più sull'individuo e la collettività. Quindi ci siamo dati una sorta di tematica, però molto molto ampia, che lasciasse davvero spazio a interpretazioni di vario genere. E i laboratori di per sé erano laboratori di ricerca sul corpo, quindi si cercava di portare ogni persona comunque a trovare un proprio linguaggio anche in base alle esperienze pregresse che aveva, quindi chi veniva più da, non so, il contact o la capoeira o le arti circense, o piuttosto che veramente non aver mai mosso un dito. C'erano anche di quelli new sì, movers, possiamo tanti, chiamarli? Tanti. Quindi laboratori aperti anche al new mover. Sì, quindi comunque è un challenge da entrambe le parti, anche ovviamente per un insegnante che magari è più abituato ad avere solo i... Ci andiamo? Andiamo noi allora. Io benvenute. No, questo è stato molto bello, vedere tanti quindi tanti non è solo per diversi professionisti, è anche per poveri curiosi. Hai capito perché? Cioè io avevo intuito questa cosa ma non mi azzardavo. Ma ecco, sostanzialmente è anche per questo che le ho invitate, perché a me piace l'orizzontalità. Falla parlare. E poi è uno stimolo enorme, sia per un professionista che per appunto l'amatore o per chi ha le prime armi, sia vedere un corpo che invece ha già una grande consapevolezza, e dall'altra parte invece vedere la spontaneità di un corpo che magari si muove o va ad esplorare determinate cose per la prima volta, perché poi con tanta tecnica, tanto studio, alle volte si rischia di perdere quella spontaneità che invece un amatore ha. Quindi è uno scambio ed è quello che tanto desideriamo. Un'altra cosa mi viene in mente, adesso stavamo parlando di new mover o di cialtrone come me la Fedra, ma cialtrone curioso ovviamente, ma c'è anche uno scambio tra insegnanti, ovvero l'insegnante che partecipa al laboratorio di un altro insegnante? Sì. Anche questo è uno dei nostri punti fondamentali, proprio una richiesta esplicita che facciamo a tutti gli insegnanti, e devo dire che c'è una buona risposta. La maggior parte partecipa ai laboratori degli altri insegnanti, e quindi chiaramente è molto arricchente, perché effettivamente vanno a studiare da qualcun altro che lavora nella stessa città, molto piccola peraltro. Vai con la musica! Black Widow and Black Widow and White Wood. The darkness of a forest eerily returns, just as a drunk looping like a mother taking swings at his woman. Why does a body's life taste so good, and we can't have it, but we must be sure. Why does sugar cane taste so good, sweet, even though sugar come only to your home? You remind me of baseball, tow trucks, and moonlights. Look sweet as to deliver milk, almost frozen on those wintry mornings. Don't slip, Mr. Mailman. Watch out for my dog. Why does kissing you feel so good, even though it ain't allowed? I know we shouldn't, sure. why does holding hands feel so right? Got a bruise on my pinky ring from holding too tight. Black diamonds, swing the corner, make it sparkle. It's all for sale. Pushing the snow on the summer kids. Blue remarks lowering, lick the lips that she wears. Lick the lips that she wears. Skittles are the rainbow, and every girl is popular though. Randy gets the most invitations to the junior high celebrations. And I go alone, I don't care, 'cause rainbow's not my favorite color. Puntata di Coxo Spaziale Speciale Setup, che però mi porta la gioia di avere con me la co-conduttrice Francesca Clementoni, nonché Marina del Coxo. Potrei dire la solita banalità, the last but not least. L'abbiamo già detto tre volte oggi. Immagino. Ma questa è last davvero. Però per la prima volta sulle frequenze del Coxo, no, in realtà no, perché in telefonica ci siamo già sentite in occasione dei primi laboratori. E qui invece dal vivo per la prima volta, dal vivo me le vedo, me le posso anche toccare, posso anche farmici due rotolate, insomma, un po' di contact, poi andiamo lì a improvvisare. Solo se becchi il nome giusto, se no non te lo concedono. Francesca Antonino ed Esther Braga con il progetto Rete Infiorescenze. Oh, in ce l'ha fatta. C'è voluto una puntata intera, ma ce l'ha fatta. E un applauso. Grazie, grazie. Okay. Questo è troppo, adesso vado via. No, dai, andiamo sulle cose serie, va. Stavamo dicendo che prima abbiamo attraversato qual è lo scopo, l'origine, l'urgenza di questa rete, abbiamo capito anche cosa ci sta alla base. Adesso vediamo nella pratica ulteriore, oltre allo specifico dei singoli incontri, ma come si organizza, perché in realtà nel fuori onda io e Francesca abbiamo scoperto che ci sono diverse declinazioni di queste infiorescenze. Ma un sacco di cose, dai, dai, dai. Allora, al momento diciamo si sta un po' articolando in diverse iniziative e proposte. E un appuntamento fisso sono dei workshop, dei laboratori domenicali, sempre a Leggere Strutture, che ci sta continuando a supportare per fortuna in questo progetto, in cui appunto c'è un insegnante, quindi ogni volta si cambia insegnante, si cambia guida, che propone il proprio lavoro per 3 ore e sono laboratori ad offerta libera. Quindi dopo, insomma, al termine del laboratorio, ogni partecipante è assolutamente libero di lasciare quello che si sente. Ma insomma, scusa, siccome oggi è domenica, non è che per caso voi venite da lì? Esatto. Hai capito? Sì, oggi c'è stato il primo del 2016, perché una domenica al mese proponiamo questi laboratori. Io sarei quasi tentata di sapere qualcosina di più, ma magari in coda ci dici cosa è successo oggi. Esatto, esatto. Esatto. E finora sono stati un successo, davvero tanta partecipazione, e la cosa pazzesca è che ogni volta è il gruppo diverso, cioè ci sono delle costanti, persone che più o meno vengono sempre, e poi ogni volta facce nuove, corpi nuovi, e quindi questo è bellissimo perché la rete si sta ampliando, insomma. E quindi questa è un'iniziativa. Poi ci sono degli eventi un pochino più specifici, diciamo, e particolari che abbiamo proposto finora. Una notturna, quindi abbiamo letteralmente danzato di notte. Ma come? Dove? A leggere strutture. Ah, io vi pensavo nei boschi. No, era troppo freddo. Dancing sotto le stelle. Era un'ottima idea, ma era troppo freddo. Quindi sì, abbiamo visionato un film e dopodiché a mezzanotte siamo partiti con dei laboratori, tre insegnanti hanno tenuto ma proprio lavoro. notturna. Sì, fino alle 6 del mattino e poi... croissant. Una sorta di rave, se mi permetti. Diciamo che le energie tendevano un po' verso quei vortici. Tendevano all'after. Un po' sì. No, è stato estremamente interessante, molto molto bello e è piaciuto molto, quindi ripeteremo a breve. E poi abbiamo avuto una maratona, quindi anche qui non stop. Di quanto? Per di 8 quanto? Ore. Sì, 8 ore, 3 insegnanti diversi, dalla contact all'improvvisazione, alla composizione, alla manipolazione del corpo e è stato anche questo molto molto seguito, eravamo davvero tanti. E adesso ci sarà un altro evento a breve, ma non vi svelo niente. Come? Perché sarà una super surprise. No, è ancora in fase di elaborazione, quindi non vorrei. Ma sono scaramantiche le danzatrici, ma chi l'avrebbe mai detto? Sarà una sorpresa. Però una sorpresa. Quando avete le idee chiare, magari me lo spiegate per telefono al Cox FM sulle frequenze di radio. Va bene, dai, facciamo così. E ma... poi un'ultima cosa che abbiamo. È la ruota settimanale. La ruota. Sì, questo è un po' più complesso, però ci stiamo lavorando ed è come primo tentativo sta andando bene. Sono dei cicli di 4 incontri che si tengono una volta a settimana e ogni 4 incontri si cambia l'insegnante, quindi è proprio una sorta quasi di corso di danza e in cui però mensilmente si cambia insegnante e questi si tengono invece a Spazio Danza, che anche qua ci stanno supportando dando ci lo spazio gratuitamente. Siamo molto fortunate. E poi noi quindi abbiamo qui Francesca ed Esther, che sono un po' diciamo le promotrici, i motori, anzi le testitrici della rete. Però in realtà ci sono tantissime altre persone più o meno presenti, costanti. Vogliamo attraversare un po' di nomi? Sì. Magari anche specificità se... Sì, Silvia Berti, che è una danzatrice più o meno anche lei giovane, della nostra età, e viene anche lei da Londra, dalla Laban, e Nuvola Vandini, che invece è più sull'Axis Syllabus, Anna Marocco, che è sulla ricerca, Elisa Pagani, Monica Rimondi, che è la direttrice di Spazio Danza, Riccardo Cazzato, Mattia Gandini, che invece è il responsabile di Leggere Strutture, Martina La Ragione, Antonella Boccadamo, Gioia Maria Morisco e Anna Albertarelli per il Contact. Direi che più o meno sono queste. Poi in estate del 2015 hanno partecipato anche Paola Palmi, Annandola Scalone e Paola Stellaminni. Però durante l'anno, vabbè, Paola è andata via, è proprio a Montpellier, quindi per ovvi motivi non può essere con noi. Eh sì, perché le danzatrici spesso viaggiano, poi sì, tornano con un carico di nuove esperienze da comunicare e trasmettere. Sì, Paolina è andata a fare casino a Montpellier, sì, ogni tanto rientra. Vabbè, e riporta. Dirla proprio così. No, ma io me lo posso permettere, me ne assumo la responsabilità. Sono stata io, Francesca Clementoni, madrina del Cox. Le ragazze di Infiorescenze non c'entrano nulla. Brano. Le pleure Francesca, è un favore che ti chiedo da Cocosco ideatrice a madrina del Cox. Vai, cosa devo fare? Mi puoi fare tu il lancio dell'ultima tranche della puntata, così ho in modo di acquisire... Cos'è l'ultima tranche della puntata? I saluti. Ah, ecco. Allora, siamo rientrate dal brano intanto. Sì. Abbiamo la fotografa ufficiale che è venuta a fotografare l'ultima puntata del Coxo da Setup, perché andava testimoniato questo momento. A me scende un po' una lacrimuccia perché è l'ultima puntata. Manca. Abbiamo due ospiti stratosferiche che stanno facendo un lavoro di rete meraviglioso. Sì. Io farei salutare loro, magari invitando anche alle iniziative, visto che alcune, tutte, sono aperte a tutti. Quindi dai ragazzi. Sì, le iniziative sono aperte a tutti. Seguiteci su Facebook, Rete Infiorescenze. E lì vi aggiorniamo su tutto. E diciamo che la tappa più grossa è a luglio, dal 4 all'8 c'è di nuovo il laboratorio estivo, diciamo. Poi da qui a luglio però succedono un sacco di altre cose, quindi davvero seguiteci su Facebook. Perciò sì, ma e chi Facebook non ce l'ha? Potete mandare una mail a infiorescenze@gmail.com. È stata bellissima questa partnership per l'indirizzo, avrei voluto avere un video. No, gliela lasciamo immaginare agli ascoltatori, perché la radio è bella perché uno può immaginare. Hai ragione. Allora c'era la maestra la madre del Coxo, con lei che stava dichiarando l'email e con l'altra che mimava la mail. Era una scena bellissima e si vede che sono donne di spettacolo. Esatto. Ecco, ci sanno fare. E con quest'ultima... Il mimo per Esther non è un mistero. Bene, io non so, sto veramente, mi sto un po'... Io vorrei ringraziare Francesca e Esther perché hanno sopportato le nostre incursioni. No, grazie a voi. Così, leggiadre, ma che volevano veramente far emergere questa bella cosa, e io vorrei che tutti i maestri e le maestre, danzatori e danzatrici si unissero in questa rete in modo da farla sempre più grande, sempre più bella. E invadere... Allora, sentite, io ho una proposta così per il futuro, ve la butto lì. Allora, c'è stata Arte Fiera ed è stata inventata l'Art City Night, che c'è la Notte Bianca, così. L'anno scorso è stata inventata un'altra cosa, mi sembra intorno ad aprile o maggio, non mi ricordo, che è stata la Notte Bianca della musica. C'erano tutti i luoghi di Bologna che mettevano musica, sia per le strade che per... Ci stai proponendo di inventare. Io voglio la Notte Bianca della danza, che non è la settimana di danza urbana, che è un'altra cosa. No, luoghi, spoilerato... chiese, musei, no, strade, completamente riempite di danza. Francesca, gli hai spoilerato l'attività segreta che non volevano dire? No, tranquillo. A quel punto la chiameremo Infiorescenze. Perché di notte? Perché fluo. Facendo contenta Fedra Gandini. Certo. Io voglio danzatori e danzatrici che spuntino da tutte le parti. Beh, dai Merlin, possiamo lavorarci, del Palazzo, no? Renzo. Così. Possiamo lavorarci. Hanno detto di sì. Perciò, e poi in ogni caso... E noi facciamo la diretta. Sì, noi facciamo la diretta, ma noi andiamo anche in laboratorio adesso. Certo. Quindi domenica prossima, chi c'era oggi? Oggi c'era Susan Foster, che è una ragazza in realtà statunitense, che lavora tra Bologna e Modena. E niente, ha proposto un lavoro molto influenzato da appunto tematiche più provenienti dalla Florida e da quelle zone là. Quali sono? Allora, questo Girotonic, che io non conosco molto bene in realtà, comunque tutto un lavoro di percezione profonda del corpo, delle linee che passano davanti, dietro, di su e di giù e fluidi, quindi abbiamo lavorato su quella coppia e poi l'abbiamo un po' proiettato nello spazio, sia individualmente che in gruppo, e è stato... Che voglia! Bello! Domenica prossima andiamo! Tra l'altro questa cosa si incrocia un sacco con una cosa che faccio io, che sono le arti marziali, perché la ricerca delle linee di forza e delle linee di movimento... Ma allora magari una volta movimento... Francesca potrebbe fare la lezione della domenica. C'è tanta contaminazione. Ma io, secondo te, le danzatrici che conosco dove le ho conosciute? A Tai Chi. Ecco. Perché cercavano proprio di fare un lavoro, stanno cercando di uscire dal loro habitus per migliorarlo. Ma a Tai Chi ci sono i livelli, no? Tu che... No, non ci sono i livelli. Com'è? A Tai Chi. Allora... A Tai Chi ognuno è al suo livello e fa quello che è il suo livello e va avanti e si evolve sempre. Perché come dice il nostro maestro cinese, e vi lascio con questa perla meravigliosa che vale anche per la danza, vale per la vita, vale per tutto. Quando tu capito, uguale zero. Va bene. Molto cozzico, molto cozzico. Direi che e con questo monito ha una sua filosofia. Si chiude la programmazione di Coxo Spaziale Speciale Setup insieme a Francesca Antonino ed Esther Braga, che sono contentissima di avervi avuto qui per capire fino in fondo tutte le varie diramazioni di queste infiorescenze, e sono anche contenta di aver finalmente ritrovata la madrina del Coxo per condurre insieme a lei questa puntata che vi vede protagoniste. Siamo onorate, grazie mille. Ragazze, grazie. Buon lavoro e diffonderemo tutti il vostro progetto perché ci piace. A prestissimo, a domenica prossima. Domenica no. prossima? No. Cosa dite? Ah, per loro! Sì, ma no, quando è invece... Il 14, sarà al 14 prossima, febbraio. È vero, non è ancora tutte le... Il 14 febbraio. Non è ancora tutte le domeniche. Arriveremo anche poi è San Valentino. Sì. Attenzione. No, io sai che cosa? Avevo pensato che avessero di nuovo spostato l'orario del Coxo domenica. Va bene, la chiusa migliore era prima, ma anche questo è Coxo Spaziale. Ciao, grazie. Ciao. Coxo Spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei ta speciale. Coxo spaziale, speciale, eccezionale, se tu, se tu sei.